Buon pomeriggio a tutti quanti, buon pomeriggio cari spettatori di Music Vox Populi. Scusate il ritardo, ma abbiamo avuto dei piccoli problemi legati all'informatica, che ovviamente è incontrollabile in alcune sfaccettature, e appunto noi le abbiamo beccate tutte, fra cavi che non si trovavano, fra altri cavi che non funzionavano e altre cose così. Vabbè, comunque passiamo al sodo. Sono qui in compagnia della mia spalla di oggi, di Luca. Buonasera, salve a tutti. Ciao Luca, buonasera e benvenuto a Music Vox Populi, la prima Grazie puntata mille. Anche per te. Prima puntata che segna il ritorno di Music Vox Populi. E perché appunto non iniziare con il botto. Quindi, alla mia sinistra, come un papa è seduto quest'oggi, il mitico Santino Cardamone. Ciao. Ciao a tutti. Che anche lui alla prima puntata di Music Vox Populi, come giusto che sia, dato che abbiamo fatto se no 5-6 puntate. Allora, andiamo subito al sodo. Chi è Santino Cardamone? Tu qualcosa ne sai, Luca? Chi è Santino? Ce lo spiega lui. Direi che abbiamo l'onore, ce lo facciamo spiegare direttamente dall'interessato. Beh sì, sarebbe una bella idea. Ma Santino... Partiamo dalle origini. Che bambino eri una volta, insomma? Allora, ero semplicemente un ragazzo molto timido, quello sicuramente. Un sognatore, uno che ha sempre suonato e suona tuttora la chitarra, e uno che oggi fa il cantautore. Fa il cantautore come primo lavoro, perché poi sappiamo tutti la mitica professione che ha Santino dopo l'ambito artistico, se così... Cioè. Sì, diciamo che svolgo la professione di docente qua vicino a Empoli, nel geometra di Empoli, al Brunelleschi. Quindi salutiamo anche tutti Insegno gli alunni. Tecnologia del legno. Sì, saluti a tutti. Ma è una cosa che avevo detto anche in puntata X Factor, questa cosa qui di questa mia professione. Ecco, hai toccato un bel tasto che magari andiamo ad aprire dopo, perché è un bel po' di curiosità, se ti devo dire la verità. Per il momento, va bene, abbiamo capito più o meno a grandi linee chi è Santino. Adesso diciamo che sarebbe il momento di mandare un pezzo. Sentiamo come canta, insomma, per chi non lo conoscesse. Allora, fra poco, quindi, una canzone di Santino Cardamone. Mentre il cielo si colorava, l'alba volando in alto ci troppo lungo i canali. Arrivati in piazza da, sembravamo dipinti in un quadro di Vincent van Gogh. Alla fine c'è tanta cultura, non è stata solo un'avventura, c'è di più oltre il sesso, la droga e il rock and roll. Ovunque questa città è una follia, con l'odor di marijuana e i capelli di una puttana, con la bontà di Marilena che fa lo sconto a chi le fa pena. Ma poi sei arrivata tu e non ci ho visto più, il mio cuore ha fatto Buonasera e ben ritornati. Qui è sempre Iovo da Music Vox Populi, sempre in compagnia di Santino Cardamone e, ciao, di, ciao. E di Luca, il bello Luca. Luca, buonasera. il Lucone. Allora, abbiamo sentito Amsterdam, ma i progetti erano altri. Però adesso che l'abbiamo messa, conviene dire quattro parole su Amsterdam. Canzone nata per quale motivo? Ma non c'è un motivo, è nata con una scommessa fatta con un amico mio, perché siamo andati appunto lì in questa città olandese, dove mi ha detto: perché non scrivi qualcosa su questa città? Io avevo detto che inizialmente non mi sembrava una parola, diciamo la parola Amsterdam molto non suonava bene, esatto. Bravo, non era musicale. E però poi dopo con la chitarra, non voglio dire magari lo stimolo che mi ha portato nello scrivere, diciamo quello che conosciamo tutti ad Amsterdam, no? Non lo immaginiamo. Vabbè, ovviamente, si immagina. E quindi, preso dall'allegria, è nata questa canzone che mi ha portato tanta fortuna. Sì, perché appunto colleghiamo appunto il prossimo discorso che riguarda X Factor, perché appunto questa canzone è stata portata sul palco di... Beh, un po' quella che ti ha fatto conoscere al grande pubblico, diciamo. Sì. Sì. Questa qua è quella che mi ha fatto conoscere al grande pubblico e devo tanto a questa canzone. Fa parte anche... e tra l'altro era uscito già il mio album. Era uscito a maggio del 2015. Ma come tutti i musicisti indipendenti che diciamo che non hanno quella buona vetrina da uscire fuori, e quindi ho detto io cerchiamo qualcos'altro, e sono andato a fare una cosa che non mi sarei mai aspettato, quindi sono andato a un talent, cosa che sono sempre stato lontano dai talenti, molto lontano. Sì, ma solitamente i musicisti sono quasi sempre lontani dai talenti, però poi per una però cosa oggi di... come oggi non sputo nel piatto dove ho mangiato, dove continuo a mangiare, servono. Perché alla fine e servono, sì, è stata una vetrina strepitosa, perché anche se sono arrivato ai bootcamp, cioè sarebbe il livello dopo l'audizione, no? Sì. Cioè prima dei live. E quindi nonostante sono arrivato fin lì, mi hanno dedicato una vetrina grandiosa che mi è servita appunto per arrivare al grande pubblico. Sì. Poi di altro, tipo mi pare che tu eri seguito da quale dei quattro giudici? Ecco, come Elio. Ma Elio sembrava anche avere uno, cioè averti molto a cuore all'inizio, sembrava insieme. Elio. Sì, Elio, ma infatti tuttora poi mi ha voluto di nuovo nel programma di, non so se avete seguito Stra Factor, il programma oddio, che no. Ha fatto quest'anno, dove era un Tra Factor, il dopo X Factor, diciamo. Ah, figo. E quindi sono stato seguito da Elio e c'era la Mayonk, insomma, è stata un'altra botta di vetrina, diciamo. Sì, ma alla fin dei conti tutte queste vetrine in qualche maniera servono, perché sennò ultimamente è difficile arrivare al pubblico, alla fin dei conti, a meno che, anche se sei un talento della Madonna, è ugualmente complicato arrivare a quei livelli là. Quindi penso che sia la cosa, non dico la più giusta da fare, ma quasi. Beh, non la è più una sensata. Cosa che succede tutti i giorni, uscire dal piccolo per un artista, immagino. Immagino non sia semplice per un artista indipendente trovare posto per la gente, diciamo. E ci vuole tanto lavoro, ci vuole tanto lavoro, e soprattutto non è detto che magari uno può andare anche a Sanremo, insomma, dove vuole, può provare tutti i talent, ma è il lavoro vero e proprio, cioè quello di comporre, lavorare sulla musica, è il dopo che diciamo è importante. Quindi è quello che sto facendo io, dove, se possiamo anticipare, già a giugno uscirà il mio nuovo estratto che anticipa aia. Pian piano il mio lavoro. A Music Vox Popoli. Abbiamo un'esclusiva. Sì, però mi fermo qui, dai, per questione di... Sì. Ma è giusto che sia così, perché alla fin dei conti le notizie vanno snocciolate piano piano. Perché se no poi se le snoccioli tutta una volta, poi si perde quella cosa, si perde quella magia. È normale, comunque ci tengo a precisare che a giugno uscirà questo nuovo estratto, questo singolo, che insomma sarà un prequel, diciamo, di un CD che arriverà prima o poi. Sì, quello sicuramente. Ah, che non, bene, c'è, bene. Non c'è una data, però arriverà altra musica. E noi lo aspettiamo. Lo aspetteremo molto volentieri. Nel frattempo che lo aspettiamo, quasi quasi, la canzone che avevo intenzione di mettere prima, che era collegata a Chi è Santino, insomma era la canzone del mulo. Adesso che l'ho ritrovata, perché il mio computer ogni tanto si perde in meandri della Madonna, perché ormai è una vecchia carcassa, adesso che l'ho ritrovata quasi quasi ce l'andiamo a sentire, poi ne parliamo un pochettino. Vai. E vediamo un po'. Allora, quindi, Santino Cardamone, la canzone del mulo, tutta per voi. Questo vivo, dritto il mio cervello, proprio come un chiodo che fa sesso col martello, in compagnia della mia chitarra più fidata, me ne prego di tutto il resto, mi dedico una serenata, voglio cantare senza limiti e paure, sono sincero per raccontare le mie avventure, ben vengano le critiche di un anonimo autore, che dirà chi sarà mai questo Santino Cardamone. Nella vita travagliata e travaglia ancora come lui, fino a guadagnarmi un lavoro definito paraculo, ma le giornate mie si è ricoperta suon di musica, tutti i giorni e le notti che mi drogano l'anima, mi sembrano testardo, musicista arrogante, e sicuro che l'anima più fragile di Dante prende l'ironia come cura del mio malumore, perché in fondo basta poco per provare un brivido al cuore. Il mio individuo che spatta la schiena, ride e parla d'amore anche quando sta in pena. Il mio signore che cerca fortuna, piange e soffre di notte insieme alla luna. Il mio non cerca chissà quali pretende, spera solo di arrivare a fine mese. Noi chiediamo un contributo a quest'era virtuale, la dignità ci è sprofondata e amiamo farci del male, e poi tutti i social network ci hanno consumato. ci stanno rubando il cuore, anzi ce l'hanno già rubato. Noi che ancora crediamo che esiste l'amore, noi che ancora vogliamo un futuro migliore. Noi generazione di illusi viviamo in un mondo dove l'uomo oramai è un burattino e cade sempre più in fondo. L'individuo che si spacca la schiena ride e parla d'amore anche quando sta in pena. Il signore che cerca fortuna piange e soffre di notte insieme alla luna. Il muro non cerca chissà quali predette, spera solo di arrivare a fine mese. Le stelle vanno a dormire, la luna chiama il sole, il vino sta per finire, l'ultimo brindisi faccio all'amore. Fiero di essermi paragonato tale quale un mulo, anche che da domani questa società me lo mette nel culo. Ben ritrovati, eccoci di nuovo qui, per qui da Music Vox Populi, dalla redazione magica, che non vi, non vi diremo mai dove si trova ovviamente, perché sennò poi venite a chiedere le foto con Santino Cardamone e non va bene, e sennò poi venite a chiedere con Luca e non va bene nemmeno, quindi... Con chiedono? No, con me no, perché io sono gay, cioè sono brutto anzi, più che gay, quindi niente, con me non va bene. Allora, la canzone del mulo. La canzone del mulo, sentire. Ma penso che sia uno dei brani più autobiografici che abbia mai scritto. Parlo come se avessi 20 anni di carriera, quindi diciamo che sì, è quella più autobiografica di tutti quanti. È un brano che è nato molto, diciamo, scritto in mezz'oretta. Solitamente le mie canzoni impiego molto tempo a farle. Questo qua invece circa in 30 minuti è uscita fuori. Uscita fuori con parole, diciamo, che raccontano la verità. Sì, penso che sul mondo attuale. Penso che ovviamente quando si parla della persona in sé è molto più, cioè le parole escono molto più liberamente. È normale, perché certo. Diventa una sorta di lettera quasi, un racconto di se stesso, quindi è molto più facile scrivere. Comporre una roba del genere. La parola verità è adeguata a questa canzone. È una canzone molto vera, molto diretta. Sì, questa canzone qua è molto diretta, molto sentita, e dove parlo, diciamo, di me stesso, delle mie difficoltà, delle mie paure. Aspetta Santino, aspetta che ci sono dei piccoli problemi al microfono. Penso che quel coso là era lì apposta. Aspetta. Ora non va? Sì, adesso va, però provati a mettere qui. Piccoli problemi tecnici come al solito, ma ovviamente questo è anche il bello della diretta, vai. Direbbe qualcuno. Ok, adesso ti senti perfettamente, vai, dicevi? No, come diceva Luca, c'è cioè il fatto del mulo, è un brano che è molto sentito, sincero, ecco, dove racconta le mie paure. La paura di affacciarmi al mondo e del futuro. Perché poi alla fine dei conti, io essendo anche artista, adesso non... è una paura comune, si può dire. Perché poi comunque questo mondo non è che ti dice vai, provaci, che tanto comunque ci riesci. Vai, provaci un cazzo che ci riesci. Perché ci sono tanti che potrebbero fare la stessa cosa che vuoi fare tu, come giusto che sia, e pochi posti a disposizione, se così si può dire. Il lavoro del cantante è mettersi in gioco. Io penso per voi, per te Santino, metterti in gioco non sia stato semplice. No, non sia stato semplice per il motivo per cui ti dico anche perché ognuno c'ha i suoi motivi per dire perché non è stato semplice. Io, essendo un amante degli anni 50, 60, 70, diciamo che mi considero nato nel periodo sbagliato proprio, anche per la musica che propongo e che faccio, sì. Ma è una cosa che mi dicono in tanti, eh. E quindi se prima il mio genere era in voga, ora ovviamente si sa che è calato un po'. È calato un po', e quindi è più dura emergere e uscire fuori. Però i risultati si vedono, grazie anche a una comunicazione importante come è stata la televisione. Pian piano si va avanti. Sì. Comunque è anche quell'altra la cosa che hai detto tu, insomma, quella dell'essere nato nel momento sbagliato quasi. Anche questa qui è una cosa molto comune, perché alla fin dei conti, se anche io, come anche Luca, penso che magari anche Luca sarebbe voluto nascere negli anni 70-80 per viversi tutta la cosa musicale che c'era all'epoca, come anche me, come anche penso il maestro Jedi qua sotto che ci sta sentendo insieme a Samir, per esempio. Quindi è una cosa molto comune, ovviamente ognuno c'ha c'ha i suoi pensieri. Allora, passiamo ad un altro argomento. Santino, tu ovviamente lo sai, Luca, ma forse il pubblico non più di tanto, è stato anche a suonare al primo maggio a Roma, se non vado errato, giusto? Sì. Com'è stata quell'esperienza? Ma diciamo che nel mio mondo mi sentivo a mio agio. A casa. Sì, ma non per un fattore politico, magari come la gente può pensare o dire. Semplicemente per il fatto del mio genere, era più adatto quel contesto lì per il mio tipo di musica. Com'è stato? È stato come suonare davanti a 1 milione di persone, una cosa incredibile. La cosa bella è che l'adrenalina era così forte i primi 5 secondi. Dopo 5 secondi era come suonare davanti a 20 o 50 persone, come tutti i miei concerti. Sì. Sì, perché poi dimentichi tutto quello che c'hai davanti. Pensi soltanto a fare una buona performance, e così credo che è stata. Sì, a dire la verità è proprio stata così, è stata una bellissima performance, perché poi comunque io ho voluto al di là vedere dei problemi tecnici che hanno sì, avuto. Sì, ma vabbè, quando si tratta di tantissimi artisti, qualche ma pazzesco, sì, ma dal vivo era una bomba, era il fatto dalla televisione, da casa, che sentiva un po' di problemi tecnici. Sì, sempre per i problemi legati alla Rai, perché la Rai è ovviamente un grandissimo puttanaio, se così possiamo dire. Ti ricordi che canzone hai suonato là? Un'altra canzone a cui sono particolarmente legato, ed è pure questa qui autobiografica, della cantata di un povero fesso, che era il brano che tra l'altro volevo portare alle audizioni di X Factor, che proprio all'ultimo minuto mi sono reso conto che non era il brano adatto da portare lì, e poi ho cambiato con quella che chi mi conosce questo, esatto, brano di Amsterdam. La cantata di un povero fesso però è un altro brano che amo fare sempre nei miei concerti, ed è un altro mio cavallo di battaglia. Quindi, dato che si parla di cavalli di battaglia, dato che non siamo X Factor, abbiamo già ascoltato il mulo, e adesso il cavallo di battaglia. Restiamo sempre in ambito animale, quindi adesso tocca alla cantante di un povero fesso. Quindi sempre Santino Cardamone, sempre Music Vox Populi, sempre noi che passiamo musica. Lasciatemi parlare, perché cantare non so cantare, sì, perché modestamente con un eccellente stonatore. Io sono come i poeti, vivo solo di illusioni, sono sempre in mezzo ai prati in cerca di emozioni. E voi ascoltatori che ascoltate le mie cazzate, non avete altro da fare che sentire le mie bicchiere. Io un povero fesso sono, mi piace bere, stare con pochi amici, come ti dice, pochi ma buoni. Io sono un musicante che fa musica scadente, perché in questo paese solo qualcuno è decente. Quel qualcuno è mio figlio Pillo, figlio della televisione, da senza educarsi niente si fa pure un bel nome. E lo stornello del vino bello, per noi seduti ai tavoli di un bar. E lo stornello del vino bello, per noi che fianchi dall'alba cantare. Ma io non mi lamento, mi accontento, brindo il piatto, brindo i miei nemici, brindo gli uomini felici. Sono un tipo strano io, brindo pure una patata, e brindo alle ragazze che non me la devono dare. Io sono uno che ha studiato anche matematica applicata, ma in fondo non so che sia tutta questa fatica. Però, se ci penso, sono un uomo fortunato, nella musica lavorativa qualche sera un po' di grande. Mentre guidando gente, canta senza niente, per colpa di qualcuno divenne pure delinquente. E padri di famiglia che per tirare avanti te mangiano dietro le 10 bolli di pane e cipolla. E lo stornello del vino bello, per noi seduti ai tavoli di un bar. E lo stornello del vino bello, per noi che stiamo fino all'alba cantando. Il cugino di mio cugino lavora in una fabbrica di vernici, ha le mani consumate, respira merda nelle narici. Mentre alcuni dei signorini, con tre calci e due palloni, si fanno i vecchi figli nei macchinoni del mio. Ma cosa ne sarà? Ma cosa ne sarà? Ma cosa, ma cosa, ma cosa ne sarà? Tutto questo è una vera offesa alla povertà. E ora che cosa vogliamo fare? Giocare a carte? No. Ballare un tango? No. Guardare una telenovela? No, no, no. E allora lasciatemi ubriacare, finire il mio sentimento, se male qualcosa dovesse andare, voglio solo morire contento. E lo stornello del vino bello, per noi seduti ai tavoli di un bar. E lo stornello del vino bello, per noi che andiamo fino all'alba a cantare. E lo stornello del vino bello, per noi seduti ai tavoli di un bar. E lo stornello del vino bello, per noi che andiamo fino all'alba a cantare. Uè, uè uè, ci siete? Ci siete? Terra chiama musica Vox Populi, ci sta qualcuno? Ci sta? Toc toc, Luca, ci sei? Ci stanno? Io ci sono. Ci sei? Tu? Vai, vai, oh, vai. C'è, ok, ci siamo, ci siamo. Allora, ci stavamo facendo quattro chiacchiere prima, quindi non ci siamo fatti prendere anche dalla la canzone che ci è passata quasi di sottofondo, se così possiamo dire. Perché si stava pensando a qualche cosina che poi magari vi snoccioliamo più in là. Per il momento... La cantata di un povero fesso, ovviamente, sì, capiamo benissimo dove va a parare, insomma. Però, un commento tuo. La nascita, com'è nata, come ha fatto. Ma com'è nata? È nata... Ma non ricordo nemmeno io, ma l'ho scritta un bel po' di tempo fa, circa 5 anni prima dell'uscita del mio ultimo lavoro, Uomini Ribelli. E... Diciamo che parla soprattutto della presto voce a tutta quella povera gente che fa fatica ad arrivare a fine mese, no? Eh sì. E dove con un semplice bicchiere di vino si perde nelle trattorie come svago. Mentre alcuni, magari, come dico, alcuni signorini con tre calci a due palloni si vanno a fare i milioni in giro per il mondo. Ma sì, diciamo che nulla contro il calcio, anzi io ti parlo di un ex tifoso del Milan. Parlo ex perché dopo magari tutto questo giro sì, adesso di denaro mi è passata diventato... anche a me sì, la mi è passata la voglia. Oh, è una per il pallone. Ma non è una critica la mia, semplicemente spiego il motivo per cui non ho nulla contro. Cioè, sì. Se può dare un momento di sollievo alla gente, ben venga. Sì, ma alla fin dei conti il calcio è considerato come una sorta di sfogo, se così possiamo chiamarlo. Anche molti quelli che vanno alla partite, a vedere le partite, come anche me ovviamente, molti vanno per cacciarsi il nervoso dalla testa. E se... lì la condivido, quello lo condivido. Sì. Ed è quindi una roba, si può dire, molto così. Alla fin dei conti si perde anche, molti vanno allo stadio anche senza sapere chi è che gioca, a dir la verità. O meglio, si sa che gioca il Catanzaro, magari è un esempio stupido, ma non sai chi sono i giocatori. Però comunque non è quello l'importante, l'importante è stare lì e cazzeggiare, perdere tempo e cacciarsi nel posto di rosso e bla bla bla. Sì. Comunque tu hai detto che prima eri un ex tifoso del Milan e adesso a fianco c'è un interista. No, non mordo. Non morde, non morde. Attuale interista o ex pure tu interista? Purtroppo ancora attuale, perché la magia ancora non mi è sparita, quindi io sono ancora grullo nel capo e ci si crede ancora in quest'Inter. Vabbè, ma tralasciamo. Tralasciamo questi discorsi, però concentriamoci un secondo su Luca, perché io volevo fare un applauso a Luca, perché il bello dell'improvvisazione è appunto questo. Io a Luca l'avrò chiamato adesso, a tempo che sono le 6:15, l'avrò chiamato una roba tipo 2 ore fa. Ho detto, senti Luca, ma quindi tu vieni oggi? E la sua risposta è stata... Vengo dove? A fare che cosa? E gli ho fatto, ma come dove? E che vuole? C'è Santino, si deve fare un'intervista. E lui, ancora più meravigliato, ha detto... Ma Santino, cioè, cosa... Un caffè? Non lo so, cosa vuole... Cosa vuole da noi? Oh, l'intervista radiofonica al Music Box Popoli, dai, muoviti! Perché non riesci ad arrivare? Cioè, corro subito, sono già vestito, arrivo. Ed è così, è andata più o meno la situazione, la conversazione telefonica. E quindi adesso si ritrova qua, prima puntata radiofonica per lui, sta facendo come se l'avesse sempre fatto. Ah, la prima è? Sì. Sì, per me è la prima volta, cioè... Sto andando un po' a braccio, però... Si è sbarcinato con te, Santino. Se così possiamo dire. Sarà un giorno che ricorderò per ancora più motivi a questo punto. La prima volta in radio e la prima volta che conosco un grande cantatore, una grande grazie persona del grande. Santino. Grande non mi ci sento, però, che dirti. Grazie. Vabbè, guarda, sei più alto di noi, quindi già grande sotto quel punto di vista ci siamo. Di età e di altezza, sì. Di età e di statura, vai. Allora... La prossima canzone, l'anticipiamo, è Il ballo del migrante. Tu, molto semplicemente, molto spontaneamente, della migrazione, che ne pensi? Ma cosa ne penso? Che è ancora un tema attuale. E anche noi siamo migranti, no? Sì. Anche tu, penso che anche Luca, anche se è di Livorno... È un piccolo emigrante. Qualche parente del sud ce l'aveva. Ma la parola emigrante non è più, diciamo, che colui che aveva quella valigia di cartone, prendeva il treno da Crotone o Catanzaro e partiva verso Milano, come tutti credono o pensano. Per me l'emigrante è lasciare la propria terra, le proprie radici, per andare altrove a cercare fortuna. Ma può essere anche una tappa da nord a nord. Anche uno di Milano può essere un emigrante. Cioè non è soltanto il meridionale l'emigrante. Io mi ci sento perché c'è mio padre che è stato emigrante, i miei nonni, e abbiamo avuto, noi venendo da una realtà, purtroppo una terra bella come la Calabria. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Il problema è qua il filo, mi sa tanto, vai. Sì, ok, vai. Ci sei. E quindi una terra bella e bistrattata come la Calabria, che ancora ci dà, come dire, dove siamo costretti a partire in tanti per trovare fortuna altrove. Tant'è che io sono qui a Firenze, Luca è qui a Firenze pure. Quindi 80 siamo chilometri, sempre migranti. Sempre migranti siamo alla fine dei conti. Bravo, quindi anche se uno è vicino. Ovviamente uno che è vicino è più avvantaggiato, magari non si porta 4 valigie con una completamente piena di cibo per... Ma più che altro e non porta la nostalgia della terra dietro. Che sì. È una cosa, credo, bella. bella perché uno magari può dire com'è bella, la nostalgia non è bella, ma per me può essere un punto, come dire, ti innamori ancora fortemente della tua terra, della tua città, del tuo mondo, no? Sì, cioè... l'ho provato manco a farla apposta, manco un paio di mesi fa, perché alla fin dei conti, poi ti lascio la parola Olga, alla fin dei conti il programma si era fermato non per una volontà esterna, ma per una mia volontà interna, perché appunto non avevo più voglia di rimanere qua a Firenze, quindi ho detto no, basta, me ne torno giù, non ce la faccio più, questo e quest'altro, momenti depressivi a manetta, poi per me che sono sempre stato attaccato alla famiglia da sotto a sopra, è stato un momento un pochettino molto destabilizzante, quindi ho detto no, vabbè, torno giù, non ce la faccio, e per questo la trasmissione sarà bloccata. Però quindi adesso è bello perché si è appunto tornando a Catanzaro, quantomeno io sono riuscito a rivedere, a vedere anzi cose che non avevo mai visto, bellezze che magari davo per scontate ma non avevo mai visto, magari e in quel momento li vedevo di più. Già farsi una passeggiata sul corso era una felicità immensa, quindi è vero, è una gioia. Vero? Una gioia, la nostalgia. Per parlare appunto di questo discorso, cioè, c'è un vecchio detto popolare che dice: nessuno ama l'Italia come un italiano che vive in Svizzera. Sei lì accanto, ma solo dopo ti rendi conto di quanto sia bello quello che hai lasciato. Bravo, cioè... certo. Perché poi comunque sarebbe un discorso molto più ampio, però comunque l'Italia alla fin dei conti sappiamo benissimo quali sono i problemi, ma se non ci fossero questi problemi, lo dico anche ad alta voce, potremmo essere la prima nazione al mondo, secondo me, per quello che abbiamo, anche solamente a livello di agricoltura, di queste cose un pochettino sempliciotte, di arte, di questo e di quest'altro. Se vengono cinesi qua a fare i turisti, stesso qui a Firenze, qualcosa vorrà pur dire. Il problema è che non sappiamo utilizzare bene le nostre carte, non le sappiamo mettere in campo bene, quindi ovviamente poi arrivano, si sta come si sta. Ma alla fine l'Italia è terra di grandi menti, e c'è da essere fieri di essere italiani, secondo me. Sì, sicuramente, quello lì, infatti non ho mai detto nulla contro l'Italia, però come ha detto prima Giovanni, i problemi sono ben altri, quelli attuali. E soprattutto qualcuno dice che potremmo risolverli noi, ma alla fin dei conti la vedo una cosa quasi impossibile, ma per un discorso strettamente legato alle forze. Perché per quanto io possa dire sì, andiamo a rivoluzionare tutto, andiamo a mettere le mutande sulla testa di qualche politico, possiamo essere in 10, in 20, in 30 a passarlo, anche in 2000, ma in 2000 contro tutti i poliziotti messi schierati là, che fai? Il problema è sempre questo. Comunque dai, finiamola di parlare di queste cose un pochettino depresse e andiamo con la canzone, Il ballo del migrante, quindi. Vai. Senti questa musica che batte forte dentro, come un aquilone vola via dove va il vento. Balla questa musica, balla finché c'è, chi di gli occhi prova a immaginare anche la luna ballare con te. Senti questa voce bastonata dall'emozione, va gridando al mondo, sono il figlio del meridione, dove l'uomo lascia lì l'amore per vincere la fame che era nel cuore, dove non è destinato a partire, non sa mai quando ritornare. Chi va a Genova, chi va a Torino, chi va a Bologna, chi va a Milano, c'è un emigrante sempre in cammino che vede la sua terra andare lontano. Levato Sciascia lo diceva, sappiamo bene che già c'era, è una questione meridionale che rimane sopra una maglia leggendaria. Quanto si bella terra mia, quanto si bella si tutta vita mia, quanto si bella terra mia, quanto si bella si tutta vita mia, la vita mia. Balla, balla, balla, questo è il ballo dell'emigrante, urla dolcemente, terra mia, stai nella mia mente. Canta, canta, canta, questo è il canto dell'uomo piangente. ha paura, lei ha paura di perdere. Senti questa musica che batte sempre più forte, per le male lingue che la chiamano la terra della morte, dove è sparso sangue umano, criminalità, mafia e terrore. Non hanno ancora conosciuto l'uomo nero che porta pane e sudore. Senti questo brivido che nasce dal rancore, è un odio così profondo trasformato in un dolore. Per una legge fatta di chiacchiere, buona sola giudicare, con le mani in tasca ci viscere una questione meridionale. C'è una Napoli troppo sporca, una Calabria che non mangia, c'è una Sicilia che non dorme, ha vomitato troppo sangue, è una Puglia, una Sardegna, una terra lucana che da salvare. Terra mia, vorrei fuggire via nel profondo cuore del tuo mare. Quanto sei bella terra mia, quanto sei bella su tutta vita mia, quanto sei bella terra mia, quanto sei bella su tutta vita mia, la vita mia. Balla, balla, balla, questo è il ballo delle mie grande, urla dolcemente terra mia, stai nella mia mente. Canta, canta, canta, questo è il canto dell'uomo piangente, urla fortemente alla tua terra dolcemente. Lei ha paura, lei ha paura di perdere, di perdere. Siamo ritornati, sempre noi di Music Vox Populi, sempre in compagnia del mitico Santino Cardamone e di Luca di Cecina, from Cecina, anzi. In trasferta, Luca in trasferta. E niente, si stava parlicchiando un pochettino prima ed è emerso la situazione, perché alla fin dei conti qua il 7 è una giornata un pochettino particolare. Che cosa c'è il 7, Santino? E che c'è? Viene il Papa, mi pare, qua a Firenze. Ah, viene il Papa? Non mi hanno avvertito. Nemmeno a me, sapevo che il Papa era tipo in... Dove che stava il Papa? Non era a Milano? Appunto, non è a Milano. Allora il Papa non può essere, mi spiace. No, è il Papa, no. No, è dai, che faccio per la prima volta il concerto nel capoluogo toscano, qui in Azzo, The Florence. Azzo, queste sono belle notizie. Bombe. Bombe a mano senza sicure. Esattamente al Dome, che credo che mi chiede la città, credo che lo conosce, il Dome. Via, il Dome, se non sbaglio, via Prato, è possibile, via del Prato, via del Prato, può via essere del Prato, via del Prato. Non via ho la più pallida idea, ma penso che sia quello, via del Prato, sì, via del Prato, e via del Prato sia. Quindi che ora dovrebbe iniziare più o meno tutto quanto? 22:30 quell'ora, no? Vabbè, quindi si può dire che fino a mezzanotte te la tiri, insomma. Sì, ce la giochiamo fra una parlata e quell'altra, dato che anche lui è una bella parlantina, non solamente io, come dice Luca. Io penso che comunque un'oretta e mezza si riesce a fare di concerto, come sempre. Poi comunque, alla fin dei conti, se fai un concerto e non fai un'oretta e mezza di concerto, che cazzo lo fai a fa? È normale. No, quindi il 7 è per chi ascolta, chi è qui vicino a Firenze o in città, venga pure. Santino vi aspetta a braccia aperte. Ci vuole il casino, però. Sì, ci vuole il casino. Vogliamo gente convinta. E anche che pochi, magari, quando serva. O che balla allegramente una bella tarantella, magari. Sai che cos'è la tarantella, tu? Certo che lo so. Ah, allora non sei proprio polentone, tu. Ma io toscani non li ho mai visti, polentoni toscani, eh? No, vabbè, ma guarda, c'è un discorso legato al classico discorso dei vecchiarelli del sud. Da Roma in su è tutto nord. No, C'è ancora una piccola frazione del centro, si può dire, dai. Noi in Toscana siamo nel centro, siamo amici di tutti. Noi si vuole bene a tutti. Bravo, belle cose. Sti bischeri. Allora, vediamo che cosa ci potrebbe andare a parlare adesso. Ecco, dato che la prossima canzone è la canzone del convertito, torniamo un secondo serie. La prossima canzone è la canzone del convertito. Va a parare su discorsi prettamente mafiosi. Insomma, tutto quello che si vive da noi, giù da noi. La brutta realtà, diciamo, della nostra Calabria, che è la cosiddetta, questo fenomeno detto 'ndrangheta. Allora, molto semplicemente, di che cosa va a parlare questa canzone? Facciamo una sorta di racconto prima di questa sentire. È una canzone che parla di un personaggio realmente esistito, che ora non c'è più. Aspetta, che qua... Problemi, eccolo, dov'è? Vai, prova adesso. Sempre... Aspetta, va, facciamo così, vai. Passiamoci questo che forse... Vanno. Vai. E quindi... Di un uomo che si è convertito, come appunto il titolo è la canzone del convertito, di un uomo che si è convertito da Dio a... Voglio dire, dalla mafia a Dio. Quindi è la storia del convertito, che ha lasciato la brutta via per prendere la via del bene, che è quella di Gesù, ecco. Può sembrare un canto religioso, ma perché no? Lo è... Forse come? Anche lo forse è, sì. Nulla contro i canti religiosi, anzi. Quindi diciamo che anche questo è un brano che è uscito nel 2010, non è neanche un album, questi sono quei primi prodotti buttati in rete, quando ancora non... I giusto primi lavori che non avevo neanche le idee chiare di quello che volevo fare o di quello che stavo per fare. Però nonostante mi trovo, dopo aver fatto un bel percorso, c'è la canzone del convertito, è un brano che tanti mi chiedono e che tanti conoscono e che tanti cantano ai miei concerti. Sì, perché poi soprattutto per noi calabresi è una cosa sentita tantissimo. Quindi quando si parla comunque di mafia, di 'ndrangheta, di tutte quelle cose che volete, insomma, tutte quelle cose che non ci danno una buona luce, a noi ci viene il sangue avvelenato, ci avveleniamo, come si suol dire. Quindi è un pochettino una cosa così. Comunque tu hai nominato, hai detto prima, di un fatto che all'inizio, diamo un consiglio anche agli artisti, quelli che ci sentono, all'inizio, insomma, si può dire che tu hai, si ha sempre un problema di non sapere che cosa voler fare della propria arte. Perché sì, parte sempre dal concetto, sì, facciamo arte, facciamo questo e facciamo quello. Però poi quando si va a comporre testi, diciamo che è una cosa un pochettino complicata, trovare una linea. L'originalità, ecco, questo è, vuoi arrivare a questo, no? Penso più che altro il discorso sia... Il discorso è più che altro fare quello che ti passa per la testa senza tentare di collegare, o magari fare, che ne so, fare addirittura concept album. Può essere una buona carta, o magari è visto di cattivo, in cattivo modo, diciamo. Di quale avevi detto? Scusa, non... Tipo i concept album, no? Ovviamente tu prendi un argomento, magari ne parli in un CD. Questa cosa qua solitamente è vista di buon occhio, tu che ormai sei entrato comunque in questo ambito. Lo vedi come una cosa di buon occhio, o la vedi come un tentativo forzato di magari di proporre alcuni... un messaggio? Esatto. Magari. Guarda, io qua, se sono super sincero, non riesco a risponderti, perché alla fine uno, i gusti sono personali, quindi c'è quello che magari lo preferisce, quello che magari c'è chi no. Io dico soltanto che la cosa fondamentale è per un artista oggi emergere e uscire fuori e trovare l'originalità, che quella è la cosa veramente complicata, perché tutti oggi come oggi ricordiamo qualcuno, per il semplice fatto perché già abbiamo avuto in passato grandi artisti che hanno fatto la storia, e quindi quando riusciamo ad allontanarci da quel qualcuno a cui ci accostano, no? Quindi allora lì vuol dire che abbiamo preso la buona strada dell'originalità. Sì, perché poi appunto ovviamente stesso anche Santino, quante volte ti sarai sentito dire: oh guarda, quello là somiglia a De André, oh guarda, quell'altro somiglia, vai, sparano un altro, tanto Cini. Vai. Ma inizialmente a me erano complimenti per me. Sì, però ma poi dopo a malincuore, sì, perché vuol dire che facciamo qui? Allora mi facevo la cover band, no? Facevi prima. Facevo prima, facevo più soldi sicuramente, con la cover band si lavora di più. Maledette cover band, no, anzi, scherzo, vi vogliamo un mondo di bene. Ma che cazzo dici? Maledetto cover band. Te l'ho detto, e voglio bene a tutti. Sicuramente è un amante, Luca, della musica inedita. Beh, è ovvio, qui vorremmo tutti che ognuno che ha qualcosa in mente uscisse e cominciasse a suonare. Sarebbe tutto più bello se ognuno dicesse la sua senza stare a guardare cosa diceva 40 anni prima De André o chi per lui. Sarebbe più bello se ognuno facesse quello che si sente di fare, come fa, come fai tu, Santino, appunto. Dici la tua. Sì, che dire, alla fine, come dici tu, sarebbe tutto più bello, però il trovare oggi come oggi un prodotto originale non è facile, non è per niente facile. Non è per niente facile perché manca la materia prima, il mercato oramai si concentra su altro, non voglio stare a elencare cosa va a cercare il mercato discografico. Perché sì, esatto, è un discorso che non finisce mai. Non finisce mai. Ma semplicemente, concludendo questo discorso, poi mettiamo la canzone e passiamo ai saluti perché si è fatta ora, diciamo. Il reale problema è sempre lo stesso. Adesso un musicista come diavolo fa a farsi quattro soldi con la musica se non fa concerti? È una maniera quasi impossibile, perché con ormai i CD non li vendi più. Ma i CD non li vendono neanche che si è affermato. Appunto, sì. Quante persone stanno in auge ma non vendono CD? Ma non vendono i dischi. Guarda, io sono super sincero. Veramente, anche voi dovreste esserlo. Te da quando non compri un disco, Luca? Ma devo essere sincero, io ho cominciato a scaricare. Perché andiamo proprio sulle... Cado proprio anche nella sincerità. Vai, te invece già 2 mesi che non compro un disco. Ed è tanto. Troppo. A voglia. Te invece? Io forse pure di più. Vedi, quindi perché questo... l'ultimo CD che avevo intenzione di comprare era un CD di Salmo. Solo che poi non avevo quegli 2 euro là che servivano per prendere questo CD di cui stavo parlando prima. E allora ho detto vabbè, non lo prendo più. Quindi questo che vuol dire? Questo vuol dire che alla fin dei conti niente. Siamo brutte persone anche noi. Siamo brutte persone anche noi. E quindi capito, alla fine come fa a campare? Un cantautore, una band campa con i concerti. E se non ha concerti, non campa, si può dire. I diritti si ha, ma ci credo ben poco, quindi sono soltanto i live. Sì. Viva i live. Che poi comunque dei live, la maggior parte dei soldi mi pare che la si ha, e comunque qualcosa se la prende, insomma, no? No, non è quello, no, no, la SIAE sono i gestori dei locali che pagano la SIAE, non è, l'artista non c'entra niente. Quindi l'artista arriva alla Anzi, somma. Anzi, l'artista che... più fa concerti, più la SIAE darà una somma poi a fine anno che aiuta e dà un bel contributo. Ma se non diventi veramente un artista affermato, parliamo di pochi soldini, quindi sì. Giusto per comprarti gelato. No, dire che ti dà la nonna, voglio dire semplicemente quello che abbiamo detto finora, che quello che mantengono in piedi un artista sono soltanto i concerti e i fan, si può dire, ma i fan quelli accaniti. E quindi torniamo al discorso, venite numerosi perché torniamo, c'è bisogno di persone, ma non per qualche soldino in più alla fin dei conti, ma anche per divertirsi insieme, anche perché per passare una bella serata, perché... sì, perché soprattutto quando un artista si mette là di fronte e si mette a parlare, anzi a esporre la propria musica, e nessuno è lì pronto a sentirla, c'è seriamente poco da fare. Gli passa anche la voglia, si può dire. Quindi comunque ritorniamo sul discorso della mafia, anzi ritornando su quel discorso, la canzone del convertito, ovviamente tutta la propaganda già la conoscete, no? Alla mafia, no? A tutte queste cose qui che possono causare questi tipi di problemi, tipo omicidi, mazzette, tangenti, pizzo e roba varia. Tutto questo è il cancro anche del nostro sud, ahimè. E Santino con questa canzone tenta di dargli una sorta di aiutami, una sorta di... Ma guarda, che dire, c'è nessuna... Semplicemente tenta di raccontare la realtà, ecco. Sì, ecco. E semplicemente è un personaggio veramente che mi ha colpito tanto, perché non capita tutti i giorni uno di lasciare la strada del male per quella del bene. Ecco, subito parliamo di un proprio di due mondi completamente diversi, dalla mafia a Dio. Esatto. È la storia del convertito. La cosa triste è che ormai la strada del male sembra la più semplice. Per questo forse c'è anche un atto di coraggio che ha insomma riconosciuto. Sì, tanto, un coraggio veramente da prendere un esempio, certo. Ok, va bene, siamo arrivati quindi all'ultima canzone di Music Vox Populi. È stato un grandissimo piacere, Santino, averti come ospite. Grazie, ciao belli. Spero che ti sei divertito bello. Anche sì, tu. Sì, mi sono divertito, veramente bello fare due chiacchiere con gente nuova, facce nuove, sempre bello. Un amici, un applauso, un saluto voglio dire a tutti gli amici di Music Vox Populi, vai. Music Vox Populi, com'è? Che mi sono dimenticato. Vai, è facile, Music Vox Populi. Music Vox Populi. E ovviamente di Radio Wombat in generale, perché Wombat Wombat è il motto. Oh, come fanno in Germania? Si alza i tacchi, via. Senza i tacchi, vai, si alza i tacchi. La canzone del convertito, è stato un piacere, grazie a tutti quelli che ci ciao, hanno seguito. Ciao, ciao. E buona vita. Buonasera. Mi chiamo Carmine Camicia Nera, tratto da una storia vera. Mi credevo il più forte di tutti, non tra i buoni né tra farabutti. Vengo da Bettini a Policastro, l'economia lì è un disastro. È un comune calabrese nei paraggi del Crotonese. Ero un bambino fin troppo vivace, con un'arma città lo spaventerò chi non tace. Mi chiamarono Carmine il dittatore, l'uomo dorato col sangue e l'onore. Ebbi un esercito da comandare ed ogni taglio da celebrare. Diedi la vita un giorno in galera ed ebbi in cambio una cella nera. Qualcuno fece il mio nome per mandarmi diritto in prigione. Giurai alla mia donna che vendetta sarà quando l'andrina ti inganna, prima o poi morirà. La la la la la, la la la la la, brindiamo alla vita e viva la libertà. La la la la la, la la la la la, brindiamo alla vita che la vendetta farà. Al mio avvocato le sarò grato, la libertà mi ha restituito. Al tribunale fu convincente, negando che fossi un latitante. Quest'uomo non fece mai del male, si è convinto senza timore. È inutile condannare un povero onesto lavoratore. La giustizia dell'uomo è un panno di Dio, sporco di sangue come tu, quello mio. E passo da quella prigione, dal mio sicario senza nome. Venne a scoprire che i traditori sono stati miei fedeli. Ma il mio potere per sempre sarà la peggio morata società. Tutti erano sotto il mio volere, ogni mio comando era d'obbedire. Contai fischiettando con profondo rancore le indrine che dovetti finalmente eliminare. La la la la la, la la la la la, brindiamo alla vita e viva la libertà. La la la la la, la la la la la, brindiamo alla vita che la vendetta farà. Yeah. Un giorno incontrai un uomo, aveva con sé una Bibbia in mano. Gli disse: Dio ti manda a chiamare perché il tuo cuore potrà cambiare. Io le risposi con poco stupore: ma sto Gesù come può perdonare un uomo che uccide senza pietà, che vive di odio e criminalità? Mi prese la mano e non mi volle ascoltare, dicendomi: andiamo in un mondo d'amore. Mi portò in chiesa e mi fece sentire un canto soave buttato dal cuore. Gli anni miei spendo per te, Dio mio, che tu moristi per me. Restai immobile a canticchiare quelle toccanti profonde parole. Chi crederà che camicia nera ci è fatto travolgere da una preghiera? E dissi: buon Dio, sei più forte di me. Gridai fortemente: la mia vita è con te. E dissi: buon Dio, sei più forte di me. Gridai fortemente: la mia vita è con te. La la la la la.